E eccoci qua con il nuovo episodio di La Conquista del Gioco, il podcast di italiano sui giochi da tavola, presentato da Claudio e Pietro di Area Games Forlì. Ciao Claudio, sei in onda? Ok, Sì, per fortuna ci sono. quindi ci siamo entrambi. Avete appena sentito la nostra sigla, ovvero Happy Days di purpleplanet.com. E siamo pronti a iniziare con il nuovo episodio del nostro podcast, ospitato da RadioBigWord.com, anche questa. Ok, bene, se ci state ascoltando alla prima messa in onda, sono le 8 di sera del lunedì sera, mentre altrimenti potrebbe essere qualsiasi ora di qualsiasi giorno. E siamo pronti con il primo gioco da tavola di questa sera. Come lo scorso episodio, non avremo un tema ricorrente, quindi non faremo quattro giochi collegati tra loro da una tematica, faremo quattro giochi a piacere. E siccome ci stavamo avvicinando sempre di più al pericoloso rischio di finire i giochi che possediamo, ho deciso di parlare questa sera di un gioco che ho giocato venerdì scorso in associazione all'Area Games e che gioco molto raramente, una volta all'anno. E quindi se non ne parlo questa sera rischio di scordarmelo. Tra l'altro, questa settimana abbiamo registrato molto tardi e ogni giorno ero sempre lì che me lo ripassavo mentalmente sperando di registrare perché il terrore di scordarmelo era molto alto. E il gioco è L'era di Conan, gioco di strategia, di Roberto Di Meglio, Marco Maggi e Francesco Nepitello. Tre autori già conosciuti per avere creato la Guerra dell'Anello e successivamente anche la Battaglia dei Cinque Eserciti. Quindi tre autori che hanno già collaborato e che in L'era di Conan ci riportano le meccaniche che già avevano collaudato nella Guerra dell'Anello. E infatti, oltre ad avere gli stessi autori e delle meccaniche, il gioco inizialmente in Italia aveva anche lo stesso distributore, la defunta Ares Games barra Nexus, e oggi ha lo stesso distributore invece della Guerra dell'Anello, ovvero la Devir, in tutto il mondo tranne che in Italia, perché in Italia la nuova edizione di questo gioco ancora non c'è e la vecchia edizione risale al 2009. Bene, ora parliamo del gioco dopo queste specifiche. Allora, il gioco è ambientato, ovviamente, come dice il nome, l'era di Conan, nell'universo narrativo di Howard, dove si muove appunto Conan il Barbaro e dove svolge le sue fantastiche avventure. Ma noi non interpreteremo Conan, noi interpreteremo uno dei quattro imperi dominanti. Conan sarà infatti un personaggio secondario che si muove mentre noi ci sviluppiamo e facciamo guerra e che possiamo portare dalla nostra parte e alla fine anche incoronare come re del nostro impero. Quindi, a inizio gioco, noi sceglieremo uno dei quattro imperi dell'epoca iboriana, ovvero Aquilonia, Turani, Iperborea e Stigia, e a questo punto inizieremo a sviluppare l'espansione del nostro impero cercando di fare più punti possibile. Allora, come si fanno punti in questo gioco? I punti si fanno completando quest che vengono risolte a fine era, ovvero l'unità di misura del tempo, della durata della partita, e attraverso alcuni primati che avremo a fine partita e l'incoronazione di Conan. Come dicevo, la partita dura delle ere, dura 3 ere. Ogni era dura 4 quest che Conan compirà nelle terre di Iperborea, di Iboria. Mi sono confuso con Iperborea e Iboria, questi nomi con la HY. Queste quest semplicemente richiedono che Conan, dal punto in cui si trova quando la quest inizia, raggiunga un punto indicato nella carta che contraddistingue la missione, la cerca di Conan. che verrà contrassegnato con un obelisco, quindi semplicemente Conan, miniatura argentea in colore, che non è di nessun giocatore, deve raggiungere questo obelisco muovendosi nella plancia. Spesso e volentieri l'obelisco è nella regione completamente adiacente, quindi Conan completa la quest con un passo. Ok, quindi una volta che Conan completa la sua quest, ne uscirà un'altra. E un'altra e un'altra, dopo quattro di queste quest l'era è conclusa e si passa all'era successiva. Il gioco è molto veloce. Allora, i giocatori durante il loro turno dovranno fare un'asta, anzi, scusate, i giocatori all'uscita di una quest di Conan dovranno fare un'asta per decidere chi per tutta questa quest controllerà Conan. L'asta viene fatta utilizzando dei segnalini numerici e delle carte, che sono delle carte che hanno più funzioni nel gioco, verranno utilizzate sia per i combattimenti che appunto per quest'asta. E nei segnalini numerici ritroviamo la regola, ad esempio, già vista, o sì, già vista perché è uscito prima, in Dungeon Twister, ovvero quando utilizziamo il 3, il segnalino 3, possiamo recuperare tutti i segnalini utilizzati prima perché sono monouso. Quindi il 4, il 5 e il 6, una volta utilizzati, potranno tornare soltanto quando in un'asta useremo il 3. Poi il 3 verrà consumato e il 4, il 5 e il 6 verranno utilizzati solo un'altra volta e non potranno più essere recuperati. L'altra tessera è lo 0. Anche lo 0 viene consumato. Sì, sai che mi sa che sta dicendo una sciocchezza. Purtroppo io non posso intervenire perché non conosco il gioco, quindi puoi dire tutte le sciocchezze che vuoi. Mi sorge il dubbio che invece sia lo 0 che fa tornare gli altri e il 3 che torna sempre. È più probabile. Sì, chiedo scusa, il 3 torna sempre, non viene mai consumato, e lo 0, quando viene utilizzato, fa recuperare il 4, 5, 6, ma poi se ne va. Scusate questo lapsus. Quindi quest'asta serve per controllare Conan. Ogni volta che il giocatore che controlla Conan inizia il suo turno, pesca uno dei segnalini della quest. I segnalini di queste quest sono di tre tipi e sono la base del gioco per fare punti. Sono i mostri, le donne e i tesori. Sì, e sono ciò che Conan trova durante il suo viaggio. Primeggiare in queste cose ci darà molti più punti a fine partita e il controllo degli artefatti legati a questi tesori. Quindi, utilizzando Conan, siamo sicuri di poter avere ogni nostro turno un tesoro se sono disponibili. Altrimenti, per poterli raccogliere, bisognerà utilizzare una faccia del dado apposita. Ok, quindi detto questo, fatta l'asta, i giocatori durante il loro turno potranno utilizzare i dadi che sono a disposizione di tutti i giocatori. Quando i dadi finiscono, vengono rilanciati e tutto il pool è a disposizione dei giocatori che nel loro turno ne utilizzano uno, come nella la Guerra dell'Anello. Solo che nella Guerra dell'Anello lo schieramento del bene ha i propri dadi, lo schieramento del male ha i propri, e qui sono in comune tra tutti. Ma la meccanica delle facce è molto simile a quella della Guerra dell'Anello, ovvero abbiamo il militare e la corte. Poi la faccia con sia militare che corte, la faccia Jolly, la faccia Conan e la faccia corte e Conan. Quindi abbiamo facce che riescono a fare due diverse azioni e facce che ne fanno fare una sola, più la faccia Jolly, proprio ricorda tantissimo la Guerra dell'Anello, appunto. Con queste azioni principalmente noi possiamo militarizzare, quindi creare unità militari, muovere e attaccare con unità militari e creare unità diplomatiche, muovere e conquistare territori con la diplomazia. Oppure utilizzare carte che richiedono l'utilizzo di una faccia del dado, oppure muovere Conan, perché anche se non siamo il giocatore che controlla Conan, noi possiamo comunque farlo avanzare nella sua quest per pescare un segnalino tesoro. Oppure possiamo allontanare Conan dalla sua quest, se vogliamo. Ma in questo caso non pescheremo un tesoro, perché per farlo bisogna che, per pescare bisogna che Conan si avvicini di almeno una regione. Detto questo, Ci rimane da vedere la diplomazia e il militare. In questo gioco, innanzitutto, ci sono due tipi di carte. Ci sono le carte comuni per tutti i giocatori che servono per combattere e fare l'asta e carte che sono legate alla popolazione che controlliamo. Quindi il gioco è leggermente asimmetrico, non tutte le popolazioni sono identiche. Innanzitutto, due popolazioni partono con segnalini magia, che sono dei segnalini particolari che servono per avere dei rilanci del dado o per fare degli obiettivi, mentre gli altri giocatori partono un po' più militarizzati, le altre due fazioni. In più, i mazzi con le carte di fazione sono leggermente diversi, mentre una fazione è più improntata nel militare e nel rilanciare i dadi, un'altra è più improntata nell'utilizzo della diplomazia, per esempio, o della magia. E quindi noi possiamo combattere. Allora, combattere funziona in questo modo: le regioni che siano vuote o che siano già state conquistate da un altro giocatore hanno una linea di battaglie che possiamo chiamare una campagna in più step. Questi step vengono fatti in terreni diversi. Ad esempio, una regione può avere tre step per essere conquistata, che sono pianura, mare e montagna, facciamo. Questo vuol dire che le abilità, le carte combattimento che dovremo utilizzare sono legate allo step che stiamo affrontando. Ad esempio, se vogliamo la carta che ci dà più facilità di avere successi nello step della pianura, ci serve appunto la carta che lo è. La carta apposita, non possiamo utilizzare tutte le carte combattimento. Detto questo, il combattimento funziona in questo modo: la regione ha un grado di forza che è il numero di dadi che lancia per difendersi. L'attaccante ha un numero di dadi pari alle miniature che invadono, e a questo punto vengono lanciati i dadi e se l'attaccante fa più successi, prosegue nello step successivo. Se il difensore fa più successi, l'attaccante perde un pezzo. Dopodiché, quando l'attaccante ha vinto, può forzare la campagna, perdendo un'unità militare che viene sacrificata per continuare questa marcia estenuante, si può continuare la conquista nello stesso turno e così via andando avanti. Quindi, se si arriva in una regione con un sacco di unità, al massimo se non sbaglio è 8, si può, e non si perde mai il combattimento, si può forzare sempre il combattimento per andare avanti. I dadi combattimento sono dei dadi contrassegnati con delle facce, ascia, scudo e altri simboli che possono essere influenzati appunto dalle carte giocate. Ad esempio, una carta combattimento che ci facilita può essere anche gli scudi sono validi come successi, mentre normalmente solo le asce sono valide. In più, anche la presenza di Conan può aiutarci. Se Conan è nella regione ed è dalla nostra parte, può aiutarci dandoci una faccia del dado aggiuntiva in più. E detto questo, l'altro, dopo aver conquistato una regione, con la forza militare metteremo una fortezza. La fortezza, che è una miniatura del nostro colore, giusto, non ho specificato che il gioco ha un sacco di miniature diverse per fazione. Messa la fortezza, questa a inizio era potrà creare unità. Oltretutto, la fortezza potrà evolversi in città. Se decideremo di evolvere la fortezza a inizio era, invece in una città, non creerà immediatamente unità, ma al prossimo turno creerà monete e unità. Praticamente la fortezza è l'unità, scusate, la città è l'unione delle due edifici base di fazione, che sono la torre e la fortezza. Ed è l'unione realmente, perché anche le due miniature si attaccano tra di loro per formare la città. E siccome la torre produce oro e la fortezza produce unità, quando vengono unite in città, essa produce entrambe. Ma ci vuole un'intera era perché abbia una produzione. E quindi l'altro edificio, come dicevamo, è invece la torre. La torre viene fatta conquistando una regione diplomaticamente e in una regione può esserci o la torre o fortezza città, perché la torre non può evolversi. Quindi se viene fatta una torre in una regione, questa rimane a meno che un altro giocatore non decida di distruggercela. La torre si ottiene facendo una semplice prova di diplomazia. È uguale al militare, influenzato però il numero dei dadi dalle nostre regioni amiche e dai nostri diplomatici vicini. E basta ottenere un solo successo, cioè vincere una sola sfida di dadi con la regione stessa, per poter costruire la nostra torre, che a inizio era ci darà una produzione di soldi, di monete. Monete che vengono poi utilizzate per comprare altri diplomatici, altre carte o altre unità militari. Ok, e detto questo, vediamo come finisce un'era. Alla fine dell'era, semplicemente i giocatori controllano quanti obiettivi comuni sono stati completati. Gli obiettivi danno punti vittoria immediatamente e una volta assegnati i punti vittoria se ne vanno e vengono rimpiazzati con altri obiettivi. Se un obiettivo finisce in parità, rimane lì dov'è. Detto questo, una volta controllati gli obiettivi, rimpiazzati gli obiettivi completati, inizia una nuova era per Conan con quattro nuove quest e così via. Detto questo, l'unica cosa che manca da dire, a parte altre regole secondarie che non andiamo a esporre come i razziatori o il completamento di una quest, c'è il fatto che a fine dell'ultima era un giocatore può incoronare Conan se esso termina una quest nella sua regione, lo porta nella sua capitale e tenta l'incoronamento. Per incoronare Conan funziona in questo modo. Il giocatore decide quale dei tre segnalini tesoro, donne, tesoro, mostri, vuole tentare di primeggiare. Ad esempio, io sono convinto di avere più tesori di tutti. Allora comunica che bisogna mostrare tutti i tesori. Se il giocatore ha ragione ed è lui ad avere più tesori, ottiene il bonus in punti vittoria per aver incoronato Conan e la partita termina immediatamente. Se invece sbaglia e non è lui quello ad avere più tesori, la partita termina, gli altri contano i loro punti vittoria, ma quel giocatore ha perso, è l'ultimo per forza. Basta così, direi che non entriamo nelle regole secondarie, il gioco di base è questo. Opinioni personali. Allora, inizialmente all'inizio partita non ci si, ci, si, si cerca di non scontrarsi molto tra giocatori, anche se può succedere perché le regioni sono molto vicine. A fine partita ci arriva per forza di cose a scontrarci, soprattutto perché gli obiettivi collidono. Ad esempio, molti obiettivi sono rivolti alla zona centrale, quindi tutti essendoci adiacenti ci vanno e ci scontrano. Il gioco è molto bello. E non è detto che chi incorona Conan vinca, perché l'ultima partita, ad esempio, ha vinto un altro giocatore di un punto e grazie ai razziatori. Vabbè, messi a caso, tra l'altro. Come dicevo, il gioco è molto bello, è pieno di miniature, ottima grafica. E se vi piace la Guerra dell'Anello, probabilmente piacerà anche questo. Un difetto, forse, che possiamo trovare nel gioco è che il gioco, che è da 2 a 4 giocatori, è veramente da 2 a 4 giocatori, ovvero in meno di 4 si sente che il gioco è stato pensato per essere al pieno. Ok, volevo dare un escurso sul prezzo, se lo trovo. Più che altro temo che sia difficile da reperire in quanto l'ultima sua stampa in Italia almeno è del 2009. Però, come dicevo prima, è probabile che Devir lo porti anche in Italia, visto che comunque Devir lo distribuisce nel resto del mondo. L'edizione europea, diciamo in inglese, è di Fantasy Flight e costa sui 65 € per un gioco che comunque vi ricordo ha una ottima componentistica. Ok. Claudio, sei Bene, libero? Ok. passiamo di qua. Il mio gioco della serata invece è un gioco che è grande quanto la mia stampante, perché è vero, ho preso le misure. Pubblicato da Asmodee, dalle nostre zone, dall'Asterion, si parla di Arcadia Quest, un gioco del 2014, un gioco creato da Cool Mini or Not tramite Kickstarter. che tiene fino a 2-4 giocatori. Allora, c'è un motivo se la scatola è così grande. Ha veramente un sacco di miniature al suo interno. Adesso non ne ha tantissime come in qualunque gioco di zombie dove hai 100 miniature di zombie intrepose all'infinito. Se non ricordo male, dovrebbe avere 35-40 miniature in gioco, ma la maggior parte di esse hanno pose quasi tutte diverse, a parte i classici minion mostri, di cui alcuni hanno più copie. Però ha un sacco di boss, e ogni personaggio selezionabile in questo gioco ha la sua miniatura personale, con ovviamente una posa completamente differente da quella degli altri. Quindi, come giochi del calibro di Blood Rage o Zombicide, parte della scatola è molto grande perché contiene dei portaminiature. Tralasciando, diciamo, la massa del gioco, passiamo proprio al gioco in sé. Allora, questo gioco è un gioco ambientazione fantasy. Sono uscite un sacco di espansioni e praticamente rappresenta la riconquista di una città caduta all'assalto di un gruppo di mostri guidati da un re vampiro. Ogni giocatore sarà alla guida di una delle gilde di questa città, una gilda di mercenari che è stata assoldata, e dovrà riuscire, scontrandosi anche contro gli altri giocatori, a liberare la città in varie quest. Infatti il gioco si chiama Arcadia Quest, quindi sono varie missioni dai mostri, risolvendo varie altre missioni secondarie o principali che si differenziano in vari scenari. Quindi il gioco comprende infatti due manuali: il manuale del regolamento del gioco e il manuale con tutti gli scenari, e anche un blocchetto per segnare i progressi, perché si gioca un po' come se fosse un videogioco, cioè che ogni volta che si completa uno scenario i personaggi ottengono dei bonus e dei malus che si porteranno avanti per quelli successivi. Ci sarà una selezione di vari scenari, quindi non verranno giocati tutti in una partita di campagna. Per esempio, ci sono più o meno, mi pare, tipo 12 scenari, una cosa simile. Se ne giocheranno tipo 8 in una partita normale, quindi alcuni verranno tralasciati. Lo scenario finale sarà sempre lo stesso, ma quelli per arrivarci possono essere diversi e verranno scelti uno dopo l'altro dal vincitore dello scenario precedente. Quindi diciamo che è un gioco che ha anche diverse variabili, perché in alcune missioni tu puoi trovare dei potenziamenti che sono attivi solo in altre missioni, se queste vengono poi selezionate e giocate. Potresti anche evitarle perché il vincitore lo sa. Quindi ha una vasta rigiocabilità per questo motivo, perché si possono cambiare i vari scenari da rigiocare in partite future. Può essere giocato in due modalità, che è la campagna, come ho appena spiegato, che ha varie missioni con le planche che vanno messe in certi modi, con certi sponde ai mostri, certi oggetti particolari che si possono trovare, e dopo un determinato numero di scenari la partita finisce e si guarda chi ne ha vinti di più e si va a leggere nel libretto il finale del gioco. Oppure c'è la partita normale da un solo scenario, che cambia un pochino le regole, soprattutto per le condizioni di vittoria, ed è un pochino più goffa come partita, e si vede che il gioco è stato fatto per essere giocato in campagna e non per delle partite singole fine a se stessi, se si gioca una partita in questa modalità. Nonostante questo, è un gioco molto interessante. Graficamente riprende probabilmente i vecchi RPG classici, perché abbiamo dei personaggi stile chibi, anche per chi li possa detestare, ma sinceramente penso che sia alla meno in questo gioco, perché comunque le miniature sono molto belle e la meccanica è molto particolare, quindi anche se non siamo fan degli omini col testone, io personalmente non ci vedo nulla di male. A me piace il gioco, non mi interessa come sono, come la grandezza della testa delle miniature. Più che altro la grandezza della scatola può essere un problema per gli scaffali, più che la grandezza delle teste. Comunque, molto carini, quindi stile personaggi da RPG vecchio stile. Come dicevo prima, se si gioca una campagna, ogni giocatore, tramite una draft, quindi una selezione di carte, dovrà scegliere tre personaggi che fanno parte della sua gilda, su 12 disponibili nel gioco base, che dovrà tenersi per tutti gli scenari che giocherà, uno dietro l'altro. Quindi deve anche sceglierli molto bene, perché si differenziano per abilità, punti ferita e altri tipi di statistiche. Mentre per quanto riguarda gli equipaggiamenti, tutti i giocatori avranno degli equipaggiamenti base uguali, che poi potranno evolversi scenario dopo scenario, perché ogni volta che noi giochiamo una partita potremo ottenere dei bonus, ottenere delle monete. A fine della partita, le monete che abbiamo guadagnato possono essere spese per comprare nuovi equipaggiamenti, che anche questi verranno presi tramite una fase di draft, quindi anche questi selezionati, per poi essere comprati con le monete che abbiamo raccolto nella missione. Tuttavia, se i nostri personaggi sono morti durante la missione, potranno tornare in vita, ma otterranno dei segnalini teschio. Ognuno di questi segnalini, a fine della partita, ci darà una sorta di infortunio al personaggio che si porterà per la prossima sessione. Quindi, per esempio, un goblin mi ha tirato una freccia, mi ha fatto sanguinare il naso. Io la prossima missione ho il nano col naso sanguinante, quindi vuol dire che avrà un meno uno di vita per tutta la prossima missione. Ci sono dei pro e dei contro, quindi bisogna anche essere attenti. Ma la cosa più particolare del gioco è che durante le missioni noi dovremo sì combattere con dei mostri che si attiveranno per una meccanica, diciamo, di rimbalzo, cioè i mostri non vengono mossi in nessuna fase, solo se tu interagisci vicino a loro o se li attacchi, si muovono di conseguenza. Quindi noi dovremo interagire in questa plancia studiando anche la posizione dei mostri. Ma attenzione, gli altri giocatori potranno anche attaccare noi. Quindi c'è la possibilità di ammastarsi a vicenda, perché ogni missione, ogni scenario, cioè, avrà delle missioni e ci sarà sempre, a parte nell'ultimo scenario, delle missioni secondarie che sono ammasta almeno un eroe di un'altra guilda, cioè della guilda di un certo colore. E quindi ci sarà sempre il fatto che tu, ok, sei andato a sconfiggere il boss, il tuo personaggio è in fin di vita, compare il ladro, ti accoltella la schiena e ti ammazza il personaggio, così anche l'altro giocatore ha completato la sua quest. Quindi bisogna anche stare attenti, anche essere un po' opportunisti, anche approfittarsene un po' degli altri, delle debolezze dei vari personaggi. Di solito i vari scenari sono pieni di portali che ti possono portare da un lato all'altro della mappa, e quindi ci metti un attimo ad attaccare un personaggio in fin di vita, di solito. E bisogna stare attenti e potenziarsi abbastanza bene, anche perché più si va avanti e più sono forti i nostri personaggi, ma lo saranno anche i mostri e i boss che cambiano carte andando sempre avanti nella storia. Allora, il gioco in sé. Se tappare il gioco richiede tre quarti d'ora almeno, giocare una partita mezz'ora. Questo Accidenti. potrebbe essere un po' un contro. Sì, è Tre veramente quarti veloce la d'ora è partita. tantissimo. Allora, se tappare il primo scenario che giochi quella sera, sì. Dopo, se è già tutto impiattato nel tavolo, devi solo cambiare le planche e ripositare le miniature. Però renditi conto che ci sono anche una valanga di token da disporre, sono cioè i token della fazione, i token monete, i token ferite, i token della morte, i token oggetto, i token port. Cioè, c'è talmente tanta roba che va divisa appena apri il gioco. Quando hai già giocato una partita, sono già divisi, basta cambiare le planche, prendere il libretto dei scenari, cambiare le planche e cambiare miniature. E in quel caso ci metti anche un quarto d'ora, dai. Però tre quarti d'ora per mettere a posto tutto di solito ci vuole quando stai la prima partita. E vi dico, le prime quest in una mezz'oretta si fanno. A meno che non si giochi in quattro. Se giochi in quattro forse ci vuole un pochino di più, ma non troppo. Perché il numero dei giocatori ti dice anche quante missioni devi risolvere prima che la partita si chiuda. Il giocatore che risolve un certo numero di missioni chiude la partita. Non ho detto nulla. Ah, ok, a posto. Il gioco in sé è molto bello, le miniature sono veramente belle. Io ho messo un sacco di tempo a dipingerle, però meritano e sono molto divertite a dipingere, anche perché sono miniature abbastanza grosse, quindi c'è più divertimento, si possono fare un sacco di tatuaggi sui vari orchi, cose così divertenti. Per un pittore è un bel divertimento. Ha una valanga di espansioni il gioco. Adesso in Italia penso sia uscita solo in italiano l'espansione che aggiunge la campagna con, diciamo, i non morti, i mostri, i zombie, ispirati al film di Frankenstein Junior, probabilmente, perché c'erano Igor e il dottor Frankenstein. Molte cose sono ispirate in questo gioco, per esempio i personaggi del gioco base, abbiamo l'arciere che è uguale identico a Legolas, abbiamo un mago che è uguale identico a Tremottino della serie TV C'era una volta, sono tutti personaggi ispirati, se non ricordo male anche la maga dovrebbe essere ispirata a Jaina Proudmoore della saga di Warcraft e così via, oppure Oppure abbiamo anche Conan il Barbaro, come parlavamo prima di Conan, abbiamo il Barbaro Grom che è uguale identico a Conan. Quindi sono tutti personaggi ispirati, ricreati ovviamente, in forma un po' più cartonesca e stupida. Le altre espansioni, ce ne sono veramente tante, su Draghi, Inferno, adesso non le conosco benissimo tutte. Si possono comprare anche eroi singoli, solo che hanno un bel costo anche quelli. Considerando che il gioco base ne contiene 12, un giocatore ne tiene 3 e il gioco è fino a 4, se giochi in 4 li giochi tutti i personaggi, quindi dopo li impari. Quindi vanno comprati o comprando delle espansioni, però già l'espansione che si tiene in Italia, quella dei mostri, aggiunge solo 2 eroi, quindi non è che sia proprio il massimo. Quelle successive non ne ho la minima idea. Mentre gli eroi singoli o vengono venduti a coppie oppure proprio in... Oppure da soli di solito e dovrebbero costare sui 10-15 euro, mi pare. Sui Il gioco in 15. sé, il gioco invece Arcadia, mi pare venga sui 60 euro il gioco base. No, 80. Viene sugli 80, ok. Sì. Ma io ormai non ci sto più con i prezzi. Mentre l'espansione che è uscita in Italia, Beyond the Grave, costa 60. Ecco, mi sono confuso con l'espansione allora. E adesso non mi sono soffermato sulle regole perché sarebbe veramente tanto da dire, però diciamo che ho dato un'impressione veloce del gioco. Beh, essendo di Asterion, è probabile che piano piano, con calma, usciranno tutte le espansioni come è stato per Zombicide. Anche perché parliamo di un gioco che comunque devi infilare nel mercato in modo, come dire, in un certo modo, per via del suo costo abbastanza elevato. Effettivamente 80 euro per un gioco sono tanti, però se ha rigiocabilità, e Claudio dice che ce l'ha, ci fidiamo. Sì, poi se non volete spendere 80 euro venite in Era Games che ce l'ho io il gioco. Ecco, visto, facciamo prima. Sì. Guardando su Board Game Geek vedo che tra promo, espansioni, mini espansioni, promine, vabbè, è un Kickstarter, quindi era palese che sarebbe andata così. Ce n'è per tutti i gusti, solo di personaggi ce n'è, e di pets, perché c'è anche l'espansione pets, ce ne sono a uno sfinimento. Sai qual è cioè la cosa brutta di queste cose? Faccio un piccolo excursus. Innanzitutto i negozi che ti vendono le promo a pagamento, e già qui è ridicolo perché loro le ricevono gratis, ma Sì. vabbè. E quando fanno le esclusive Kickstarter, perché dopo non le riesci più ad avere a un prezzo umano. Ad esempio, quelle di Esatto, perché l'espansione di Catacombs uscita per il Kickstarter la fanno costare più di 100 euro, sono tre eroine con dei dischetti di legno, cioè. ah, ma ti dico anche gli eroi di Arcadia Quest, 15 euro per una miniatura, una carta, mi sembra un po'. Che poi comunque ok, sono belline, però non è che siano queste miniature, signore miniature di un materiale assurdo, cioè. No, è PVC da gioco da tavola, niente di che. Non è resina finecast. Va bene. Sorvoliamo su Arcadia Quest che non ho mai provato, ma forse un giorno ci sarà un torneo associativo, chi lo sa. Perfetto. Non è proprio un gioco da torneo, credo, però vabbè. Se bisogna, vabbè, se si ricresce, si rigestiscono un po' le regole, forse, proprio, magari bisognerebbe investire altri 80 euro per un'altra copia del gioco. Chi lo Vabbè. sa, vabbè. L'unica cosa, beh, non si sa mai. L'unica cosa che volevo segnalare è che tra i personaggi promo c'è anche Leroy Jenkins, basta. Sì, l'avevo notato, sì, lo sapevo anche questo. Ok, detto questo, proseguiamo. L'altro gioco di cui voglio parlare è anche questo un gioco in Italia edito da Asterion Asmodee, ed è un gioco che ho provato per la prima volta all'area dimostrativa che abbiamo fatto questa domenica che è passata e che fino ad oggi avevo sempre un po', è brutto come termine, ma schifato, dicendo ah sarà un giochino, e in realtà è stato divertentissimo. E il gioco di cui parlo è Concept, ovvero un party game astratto, molto particolare. Allora, Concept che è originalmente della Repos Game, che non sbaglia mai un colpo, ma è giocato un gioco Repos brutto, incredibile. E in Italia, appunto, è arrivato con Asterion. È un gioco in cui un giocatore a turno farà il narratore chiamiamolo narratore, anche se non è proprio il termine giusto, e gli altri dovranno indovinare quale termine o modo di dire o film o qualsiasi cosa stia cercando di fargli indovinare. Questo attraverso soltanto una plancia con delle figure, dei cubetti e dei punti interrogativi ed esclamativi. Allora, praticamente il gioco è formato appunto da questa plancia con delle icone che raffigurano varie cose. Ad esempio, abbiamo una colonna dove ci sono icone che raffigurano l'uomo, la donna, la famiglia, l'anzianità e la gioventù, una cinepresa e un libro e così via. Un'altra con delle parti del corpo, un'altra con delle direzioni, delle forme geometriche e una con dei colori e così via. Quindi abbiamo un sacco di elementi visivi. Appunto visivi, perché possono essere letti in modo diverso. Poi il gioco si compone di un mazzo di carte e ogni carta ha 9 parole o termini o modi di dire, visto che sono anche cose abbastanza lunghe. 3 difficoltà facile, 3 media e 3 difficile. Una volta deciso a che difficoltà giocare, il giocatore che quel turno deve fare chiamiamolo un narratore per facilitarci le cose, sceglie quale delle 3 parole della difficoltà scelta vuole far indovinare. A quel punto lui ha a sua disposizione un punto interrogativo verde e vari punti esclamativi di vario colore più i cubetti sempre di questi colori. Il punto interrogativo è il concetto, ovvero è la cosa fondamentale per far capire ai giocatori di cosa sta parlando. Facciamo un esempio. Mettiamo che la parola che deve fare indovinare è Romeo e Giulietta. Allora il giocatore metterà nel concetto libro, quindi il punto interrogativo verrà messo nel libro per far capire ai giocatori che la categoria della cosa a cui si riferisce principalmente è il libro. Ma Romeo e Giulietta non è solo un libro, è anche un film. Quindi potrebbe mettere un cubetto verde e i cubetti stanno a indicare un qualcosa che è relativo e c'entra con il concetto principale del proprio colore sulla telecamera, in modo da indicare che è un libro ma è anche un film. Poi, per andare più nel dettaglio, potrebbe mettere un concetto secondario con un punto esclamativo dei vari colori che ha a disposizione sull'uomo, anzi sull'amore, sul cuore. E poi mettere un cubetto dello stesso colore del punto esclamativo sull'uomo e sulla donna, in modo da indicare che è un libro ma è anche un film. E poi come concetto secondario è una storia d'amore, dove ci sono un uomo e una donna, e poi può collegarlo alla morte, al conflitto, al veleno, visto che c'è anche una provetta con del liquido verde, anche se sarebbe la chimica, però appunto essendo un gioco ad icone che possono essere interpretate potrebbe sembrare il veleno. E quindi il giocatore, narratore, si scervella per tentare di collegare più cose possibile e creare un percorso logico. Nel frattempo, ovviamente, se lui non parla, gli altri iniziano a tentare di indovinare e il narratore può solo dire sì o no. Quando un giocatore indovina, a quel punto il giocatore che indovina guadagna 2 punti vittoria, mentre il narratore uno, a meno questo da regolamento. Dopodiché passa il narratore e si va avanti così. Il gioco terminerebbe quando finiscono i segnalini 2 punti vittoria. Può anche succedere che il narratore non riesca a far indovinare il suo termine perché non riesce a creare un percorso logico funzionale o perché la parola era troppo difficile. Ad esempio, in difficoltà difficile c'è anche menare il can per l'aria per dire da far indovinare, che mi sembra un po' improbabile. E basta. Del resto, il regolamento del gioco specifica che il gioco si può giocare senza punti e che soprattutto anche gli autori preferiscono giocarci senza punti e che è customizzabile a piacimento, ovvero i giocatori possono creare tutte le house rules, le regole personali che vogliono perché effettivamente è molto libero come gioco. E come dicevo, a componenti abbiamo solo una plancia, un mazzo di carte, i segnalini punto vittoria che sono delle lampadine e un contenitore con tutti i punti interrogativi e esclamativi di plastica e i cubetti trasparenti dei vari colori. Questo è Concept, che secondo me è un gioco brillante e divertentissimo, perché è veramente divertente, soprattutto quando quando riesci a fare un bel percorso e un giocatore te lo indovina. E il costo di Concept è 30 euro, che è anche abbastanza accessibile, e appunto essendo in Italia portato da Asterion Asmodee, ha una distribuzione ottimale ed è reperibile praticamente in ogni negozio specializzato in giochi da tavola, e quindi in ogni grande città ce n'è uno almeno, e quindi è molto facilmente reperibile. Tra l'altro, è stato fatto anche il mat per giocare a Concept gigante, ovvero il mat semplicemente, questo tappetino, espande la plancia in versione più grande, quindi serve anche il gioco base. Il mat costa 26 euro ed è distribuito da Asterion. Ricorda un po' il mat di Splendor per ordinare. Sì, Per il per prezzo, tutto, cioè non è fondamentale e ha un prezzo altissimo, però vabbè. dai, il mat di Splendor serve a ricordarti come vanno messe le carte. Vabbè, dai, è bello da vedere il mat di Splendor. Quello di Concept non è molto, cioè semplicemente è la plancia più grande, però vabbè. Se uno vuole spendere lo stesso prezzo del gioco o ancora, può comprarlo. Bene, detto questo era Concept, quindi Claudio, prego. Ah, Se non è giusto, un. una Se... cosa, il gioco sarebbe da 4 a 12 giocatori da regolamento, perché effettivamente giocarlo in meno di 4 non ha molto senso. Anche se è un po' negativo come fattore di entrata giocare in 4. La comunità di Board Game Geek dice che si può giocare anche in 2, ma sinceramente mi sembra una sciocchezza. Sembra un po' triste, però anche 12 mi sembra un po' troppo espansivo, perché dopo volano proprio un sacco di parole. Beh, è anche vero che si può giocare a squadre, quindi. Sì, allora giocando a squadre, facendo i narratori, ci si incasina tantissimo. Perché una cosa che non ho detto da regolamento, se non puoi più spostare un concetto che hai posizionato quando eri narratore. Quindi sai che se uno ha fatto una sciocchezza, non la puoi più spostare. Ad esempio, nella partita che abbiamo fatto noi, un giocatore ha sbagliato i colori della bandiera americana, perché per indicare la nazionalità americana avevo utilizzato i colori, però aveva messo anche il giallo e quindi non riusciamo a capire di che nazione si stava riferendo, perché c'era questa bandiera blu, bianca, gialla e rossa, boh. Ma non poteva più togliere il giallo e quindi va bene. Claudio, scusa se ti ho interrotto, vai No, pure. ma dato che siamo ormai verso, cioè, è già da parecchio che siamo in linea, quindi piuttosto che parli di un gioco da tavola, faccio un minimo pubblicità al famoso torrente di Smash Up e poi possiamo andare in chiusura, direi. Va bene, va bene. Allora, questa puntata esce lunedì 5, Sì. il torneo sarà venerdì 9. Sì. Le iscrizioni sono già aperte sul nostro sito Facebook Aera Games ACSD, torneo di Smash Up. Non so se questo lunedì sarà già pieno perché il torneo sarà fino a 8 giocatori, però nel caso ci sia ancora posto, dateci un'occhiata perché, come già detto in passato, sarà un torneo di iscrizione gratuita. I finalisti vinceranno dei premi, tra cui il secondo classificato vincerà un gioco da tavola da 2 giocatori. Il primo classificato vincerà un gioco da tavola diverso da quell'altro, però sempre per 2 giocatori, più un altro favoloso premio che non dico che cos'è. Si potrà scoprire solo live in diretta quel venerdì sera. E E potrete sì. vederlo il vincitore con i premi nella galleria fotografica che metteremo dopo. Le regole del gioco, anch'esse comunque, come ho già detto, sono su Facebook, sono praticamente quelle del gioco base, con proprio qualche piccolissima modifica. Sarà un torneo di eliminazione diretta, quindi se siete interessati, se siete in zona, non c'è nulla da spendere, solo un po' di tempo alla fine dei conti, e si possono vincere dei bei premi. Poi successivamente avremo anche l'asta, mi pare, giusto? Sì, Qualche, due già qualche venerdì giorno. dopo, il 23, avremo l'asta di Natale. E quindi se siete anche lì interessati, il giorno, scusami, il 23 dicembre, venerdì. venerdì 23 dicembre organizzeremo anche un'asta di giochi da tavola dove potete sia portare dei giochi da mettere a disposizione per l'asta o venire semplicemente per acquistarli. Anche qui le istruzioni si trovano già sulla nostra pagina Facebook, venite a dare un'occhiata. L'evento si Vedete. chiama Asta Games e pian Sì. piano verranno inseriti i lotti che verranno annunciati prima, Saranno alcuni. Sì. disponibili, sì. Mettete mi piace, seguiteci. Fate tutto ciò che è in vostre, che è nelle vostre capacità per aiutarci, perché anche noi vi aiutiamo. Vi portiamo i giochi, vi portiamo i tornei, quindi ricordatevi che Ok. noi siamo sempre qua. Ok. Per il resto c'è da dire soltanto che l'11 dicembre, domenica, saremo ancora a Forlimpopoli per la seconda giornata dei mercatini di Natale, in cui avremo un'area demo dalle 10 del mattino fino alle 7 di sera per tutta la famiglia, gratuita ovviamente, nei locali del comune, nella sala consiliare per l'esattezza, che si trova dentro la fortezza di Forlimpopoli. Ok, per il resto, se avete qualcosa da dirci, potete comunicarcelo tramite la pagina Facebook di Aria Games o su radiobigworld.com. Sotto al player del podcast trovate lo spazio per i commenti. Condividete il podcast, condividete Radio Big World se volete aiutarci, perché abbiamo bisogno di voi per farci conoscere. E per il resto, direi che abbiamo chiuso qui e possiamo salutarci anche per questa settimana. Ci vediamo alla prossima, in cui ho in Benissimo. serbo un giocone cooperativo di cui parlare. Quindi, ciao ragazzi, ciao a tutti! Ciao ciao.